prima edizione. Prima edizione, 6:14, 50 secondi, buona giornata ancora da Anna Migliorati. Oggi è il gran giorno, il giorno della sfida agli europei per Italia e Germania. Il rompipallone di Gene Gnocchi questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Oggi a Varsavia a sostenere gli azzurri ci saranno 20.000 tifosi. Attenzione, solo 3.000 per il ministro Fornero. Battuta facile, dirà qualcuno, ma intanto ci siamo. È il giorno di Italia-Germania. Ve lo racconteremo per tutta la giornata a Radio 24. Lo seguiremo con il nostro inviato Carlo Genta. Il giorno anche, naturalmente, del vertice europeo a Bruxelles. E anche qui andremo ampiamente nel corso della giornata per raccontarvi anche qui che succede invece sul piano politico, diplomatico, economico per il futuro dell'Europa. Ma intanto solo una piccola pausa per noi, poi le prime pagine dei giornali. E allora veniamo ai temi economici, politici di oggi, perché a questo dedicano l'apertura la maggior parte dei quotidiani che troverete in edicola, come sempre la nostra carrellata. Allora, la Repubblica, Hollande e Merkel, ora più Europa, oggi vertice decisivo, Monti dice sia la Tobin Tax solo se passa lo scudo anti-spread. Il Sole 24 Ore, anti-spread, ultimatum di Monti, e il Corriere della Sera, la carta italiana in Europa, Monti disponibile sulla Tobin Tax, ma in cambio chiede appunto un meccanismo per calmare gli spread. La Stampa, euro, l'ultimatum di Monti, e la Merkel che ammette la situazione seria. Il Messaggero, Europa, la sfida di Monti, avvenire anche questa mattina nell'euro vortice, oggi il summit a Bruxelles. Insomma, il tema è questo, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, oggi sarà davvero una giornata importante. Lo sarà, per la verità, i prossimi giorni, fino a domenica, quando pare si chiuderanno i lavori, e vedremo quale Europa ci attende in futuro, o almeno quale strada si deciderà di prendere per l'Europa. Questi temi cominciamo anche a vedere un po' come li affrontano allora i giornali. Allora, cosa chiediamo alla Germania? Scrive questa mattina direttamente sulla prima pagina della Repubblica il direttore Ezio Mauro. Vista dall'Italia, l'opinione pubblica tedesca sembra credere che la crisi economica finanziaria stia attaccando gli stati sovrani dell'area mediterranea, risparmiando il cuore virtuoso dell'Europa più forte. Io credo invece che la prospettiva sia sbagliata e soprattutto che la verità sia più allarmante. L'attacco è all'Europa stessa attraverso la sua periferia più debole, è alla moneta come strumento e simbolo dell'unità del continente e dunque a tutto il processo politico, storico e culturale di costruzione europea che ha evitato conflitti per quasi 70 anni. È questo, e tutti lo stanno ripetendo, che c'è in gioco oltre all'euro in questi giorni, l'idea che abbiamo di Europa. Il retroscena che pubblica il quotidiano La Repubblica è quello di Schäuble, il mediatore. Convinco io Angela, così si è detto disponibile. L'obiettivo, la sfida di Mario Monti è tenere bloccati a Bruxelles gli europei per tutto il fine settimana, insomma far sì che le trattative, come ha detto Monti, vadano avanti ad oltranza finché un accordo quantomeno non si troverà. A fianco sulla Repubblica c'è anche la polemica invece tutta italiana, la gaffe del ministro Fornero, che parlando con lo Wall Street Journal ha detto: il lavoro non è un diritto. Eccola la polemica che è scoppiata. Il ministro in realtà poi si corregge nel giorno in cui peraltro è stata approvata ieri la riforma sul lavoro, e ha detto: il posto di lavoro non è un diritto, ma tant'è, la discussione è aperta. Il Sole 24 Ore, vi dicevo, anti-spread, ultimatum di Monti, il titolo di apertura. A fianco trovate un altro intervento questa mattina di peso, perché è il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, a scrivere direttamente dalle pagine del Sole 24 Ore. Solidarietà e responsabilità, ora serve un atto di coraggio, così dice Barroso. L'inizio è questo: il Consiglio europeo ha affidato il 23 maggio un mandato al suo presidente, al sottoscritto, al presidente dell'Eurogruppo, al presidente della Banca Centrale Europea, affinché elaborassimo una visione per il il futuro di un'unione economica e monetaria più profonda e integrata. La relazione che presenteremo segna l'inizio di quel progetto, di quel processo. Ecco dunque il cuore della questione, al di là degli accordi che verranno trovati. Il Corriere della Sera, anche qui dicevamo, la carta italiana in Europa, sarà Monti un pilastro importante di questa trattativa. Ma intanto che fa Angela Merkel? La cancelliera, leggiamo dal Corriere della Sera, ha messo in guardia dalle soluzioni facili, ha speso parole lusinghiere per l'Italia sulla strada del risanamento, ma è la Merkel che ha incontrato a Parigi il presidente francese Hollande e lui ha accennato a una futura unione politica, lei al patto sulla crescita. Dunque l'asse, la posizione di Angela Merkel così dura e rigida, forse dopo l'incontro ieri con Hollande, l'ennesimo pressing, forse si sta un po' inclinando, vedremo oggi cosa succederà. Corriere della Sera, anche in questo caso centro pagina dedicato alla riforma del lavoro, la riforma del lavoro è legge, ora arrivano i tagli alla spesa, il Consiglio dei Ministri straordinario ci sarà domenica, quindi sarà un fine settimana davvero intenso perché, come dice, dicevamo, Monti punta a tenere inchiodati al tavolo della trattativa i leader europei fino a domenica sera, fino a prima che aprano le borse lunedì, e domenica ci sarà anche un Consiglio dei Ministri straordinario già per la spending review con risparmi su enti locali e statali e quindi si va sempre più velocemente avanti con quelli che sono i progetti del governo Monti. Corriere della Sera, La Stampa, euro ultimatum di Monti, dicevamo. E anche qui centro pagina, lavoro sia la legge, caso Fornero, il ministro, il posto non è un diritto e poi si è corretta in realtà la Fornero e ha detto il posto di lavoro, non il lavoro, non è un diritto, ma è messo in discussione il diritto al lavoro, ha spiegato il ministro, che ha parlato però di polemiche protestuose. Fatto sta che nel giorno dell'approvazione della riforma del lavoro, certo le parole del ministro Fornero non sono state le più azzeccate. Il Messaggero, anche qui Europa, la sfida di Monti, abbiamo detto l'apertura, e anche qui via libera alla riforma, nuova polemica sulla Fornero tagliente. Il commento di Mario Aiello questa mattina sul Messaggero, eccolo il titolo, basta quello, specializzata in scivolate, di certo non è stata, è stata una scivolata quella di ieri del ministro Fornero. C'è anche un altro scontro, che è quello sulle ferie dei deputati. Vi ricordate, ieri abbiamo letto Cicchitto sulla Repubblica che diceva fateci andare in ferie ad agosto o sarà crisi per la maggioranza. Va avanti tutto questo, leggiamo dal Messaggero, in aula anche ad agosto arriva il no dei deputati, è una vera e propria rivolta sul web, occorre convertire 13 decreti legge entro il 1 settembre, avverte il governo, e un gruppo di deputati della maggioranza ha replicato, noi non ci saremo, in realtà al momento risulta salva solo la settimana di Ferragosto, faranno le ferie solo la settimana di Ferragosto, potrebbero saltare anche altri giorni, e allora sul web ecco la rivolta dei deputati che vogliono andare in vacanza, ne parleremo anche più avanti a prima edizione, già vi anticipo, perché abbiamo mandato la nostra Elisabetta Fiorito allora a parlare direttamente con Cicchitto, capogruppo del PDL, che è stato un po' il primo ad esprimersi su questa questione. Sentiremo più avanti cosa allora ci ha risposto. Altri temi, qualche altra curiosità o notizie più serie per la verità che trovate ancora oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Torniamo con la Repubblica, che succede oggi è il 28, domani sarà il 29, quindi un mese dalla scossa più forte per il terremoto in Emilia, di promesse ne sono state fatte, una però è già disattesa, i soldi restano ai partiti, beffa per i terremotati, è già polemica che su questo, mentre le tesorerie dei partiti, con poche significative eccezioni, non disdegnerebbero di incassare per intero la rata di luglio del finanziamento pubblico, la legge annunciata a suon di tromba che quella rata dovrebbe dimezzare a beneficio delle popolazioni terremotate segna del passo ed ormai quasi impossibile che venga approvata in tempo utile, visto che luglio è arrivato, e quindi pare che questa promessa per il momento per i terremotati sia disattesa, così sulla Repubblica. E fondo pagina del Corriere della Sera, un'altra notizia invece che arriva dagli Stati Uniti che potrebbe cambiare per molti le abitudini. Parliamo di tablet, oggetto ormai diventato dei desideri per molti, ma ahimè ancora assai costoso, però tutto potrebbe cambiare perché ora la sfida dei tablet è sul prezzo, scrive il Corriere della Sera. Google lancia Nexus 7 contro il dominio dell'iPad di Apple e lo fa soprattutto sul prezzo, $199, e quindi già si parla di altre cifre, ed eccola allora la sfida dei tablet sul prezzo, così il Corriere della Sera. La stampa, restiamo negli Stati Uniti, California in bancarotta, la città della corsa all'oro, la porta dei sogni di ricchezza dei cercatori d'oro, da città più miserabile d'America. Ecco la parabola, scrive oggi la stampa di Torino, di Stockton, California. Si è compiuta martedì notte quando un consiglio comunale triste e stranamente pacato ha dovuto prendere atto della realtà. È bancarotta. Stockton era la città dei cercatori d'oro. 2012 è bancarotta. Forse anche questo segno dei tempi, chi lo sa. 6:26 minuti e 40 secondi, segno del tempo in qualche modo anche per noi, perché non me ne sono dimenticata naturalmente della partita di questa sera per Italia-Germania. Ecco allora come la raccontano i giornali. Restando alla stampa, sfida ai tedeschi, molto più di una partita. Italia-Germania 9-4, avete sentito bene, così scrive Massimo Gramellini. Italia-Germania è una partita di calcio che per molti di noi dura da tutta una vita, tanto che ha finito per assomigliarle un po'. La mia è cominciata un'estate di 42 anni fa, sono quel bambino in corridoio davanti alla porta del salotto con i piedi nudi per non fare rumore e l'occhio destro schiacciato contro il buco della serratura per vedere una partita ad un'ora in cui ai bambini non era concesso. Italia-Germania 9-4, Massimo Gramellini, il Messaggero, dopo tante metafore, tanti filosofi scomodati per Germania Grecia, invece pesca dal mondo della musica. Verdi contro Wagner, musica e caratteri, Italia-Germania per un'altra impresa, così il Messaggero. Giuseppe Verdi e Richard Wagner, come dire Italia-Germania, come dire due grandi scuole a confronto. Allora il mondo della musica questa volta che vede la metafora della sfida di questa sera per il Messaggero. Nuovo sogno azzurro, il Corriere della Sera, la sfida degli azzurri, rischiamo per vincere, così la Repubblica, ed eccola anche la Gazzetta dello Sport, senza paura il titolo a grandi caratteri di questa mattina. C'è Italia-Germania, vale la finale, alziamo il volume, così la Gazzetta dello Sport. Non potevamo non concludere così la nostra carrellata, almeno delle prime pagine, come sempre alle 7:20 la rassegna stampa più ampia con Alessandro Milan. Vi ricordo ancora, seguiremo con molti speciali oggi la partita, seguiremo il vertice europeo a Bruxelles. Ora però facciamo una piccola pausa, ci risentiamo tra poco con le notizie di oggi. Grazie Daniele Biacchessi. 6:37 minuti, 30 secondi, ancora buona giornata da Anna Migliorati, seconda parte di prima edizione. Domani l'ultimo giorno di questa stagione, per prima edizione, ve lo ricordo ancora, naturalmente resteranno GR24, continueremo ad informarvi, però almeno questa avventura per il momento termina qui, e c'è anche qualcun altro che vuole andare in ferie, anzi minaccia catastrofi se non andrà in ferie. Fateci andare in ferie o sarà crisi, insomma, in poche parole è stato questo il retroscena pubblicato ieri dal quotidiano La Repubblica, attribuito al capogruppo alla Camera del PDL Fabrizio Cicchitto. A lui si sono aggiunti poi molti altri deputati in quella che è già diventata una vera e propria rivolta in Parlamento. Che succede? Occorre convertire 13 decreti legge entro il 1 settembre, e quindi c'è da lavorare. I deputati potranno andare in ferie solo qualche giorno nella settimana di Ferragosto, ma loro non ci stanno. Fateci andare in ferie o sarà crisi, dicono. E allora la nostra Elisabetta Fiorito è andata a chiederne conto proprio a Fabrizio Cicchitto. No, il problema è che non è in relazione alle ferie, è in relazione, e questa è la parte seria della mia discussione con Giarda, poi ce n'era una scherzosa, è che noi ci troviamo di fronte ad una cifra inusitata di decreti, che sono circa 13. Allora, 13 decreti e non ci sono mai stati un affollamento di questo tipo nella vita parlamentare, che implica quindi che noi lavoreremo luglio, agosto, settembre per smaltirli. Questo era il problema. Poi le battute erano sulle ferie, ma erano battute scherzose. La cosa seria riguarda un numero inusitato di decreti che non c'era né ai tempi del governo Berlusconi né ai tempi del governo Prodi, nel senso cioè di un governo che procede unicamente per decreti, tranne adesso per quello che riguarda il mercato del lavoro, invece, dove siamo andati con un disegno di legge che ci ha creato nuovi problemi e che ha costretto il governo a chiedere la fiducia. Questa è la questione seria. Poi le questioni meno serie erano delle battute, ma vedo che le battute diventano l'avvenimento fondamentale. La questione seria viene messa da parte. Questo quindi è il nodo. Quindi era solo, insomma, uno scherzo dire trovatevi un'altra maggioranza. Sì, era uno scherzo derivante però dal fatto che noi oggi abbiamo una situazione nella quale i lavori parlamentari sono intasati al punto tale che noi che avremmo per esempio da proporre il disegno di legge sulle intercettazioni vediamo che scorre all'infinito, perché onestamente non c'è modo, oltre ai decreti, di collocare disegni di legge. Non è stato calendarizzato l'invio? Sì, è stato, si è detto dopo i decreti, perché come voi sapete i decreti se no decadono, quindi stiamo in un blocco, diciamo così, inquietante dei lavori parlamentari, che vengono dominati totalmente e unicamente dai decreti del governo. Allora, con tutta la buona volontà nei confronti di questo governo, è un governo che come dire, rovescia il rapporto col Parlamento, per cui il Parlamento vive soltanto delle iniziative che fa il governo, pone un problema assai serio, perché ci deve essere un'autonomia parlamentare nella quale qualche disegno di legge, di iniziativa nostra, di iniziativa degli altri partiti e dell'opposizione, dovrebbe avere spazio, mentre allo stato attuale siamo costretti a programmare soltanto decreti, come abbiamo fatto nel lavoro Alfano di oggi. Aveva detto è l'ultima volta che ci adeguiamo, riferito a riforma della riferito alla fiducia. Quella riferita alla fiducia. E quindi quello è un problema politico. Questo dei decreti è un problema che attiene proprio alla vita del Parlamento. Presidente, insomma, quando possiamo prenderci un po' di sole? Quando non i parlamentari si prenderanno un po' so di dire. Sole? Non glielo so dire. Ma se lo prenderanno? Non glielo so dire, perché il problema non è questo. Il problema è il fatto che allo stato attuale noi non siamo in grado di programmare altro che decreti su decreti, quindi questo annulla qualunque altro tema che scherzosamente possiamo discutere. Mettiamola così. E mettiamola così, però tutto sommato anche di vacanze e come si sono lamentati i parlamentari. Magari ci torneremo ancora con GR24 nel corso della giornata. 6:42 minuti, ora però ci attende ancora una volta, ve l'avevo preannunciato, il punto sul vertice europeo. Da oggi a Bruxelles si fa davvero sul serio, basta prevertici, basta annunci, si entrerà nel cuore del problema per tracciare la via che l'Europa vorrà scegliere per salvare l'euro, ma non solo. Allora torniamo a fare il punto sulle premesse da cui si parte. Saluto ancora Valeria De Rosa. Ancora un buongiorno a te, Anna, a tutti i nostri ascoltatori. La situazione è molto complessa e lo dimostra il fatto che le dichiarazioni dei leader ieri hanno cambiato sfumature nel corso della giornata. Ieri mattina al Bundestag la cancelliera Merkel aveva detto di non aspettarsi troppo da questo vertice, poi ieri sera all'Eliseo la stessa Merkel ha detto siamo alla vigilia di un vertice di grandissima importanza per il futuro dell'Unione Europea. La situazione è seria. Abbiamo l'obbligo di costruire l'Europa forte e stabile di domani. L'incontro di Parigi ha ribadito i punti fermi dei due leader. Hollande chiede la crescita. Ricordiamo che sul tavolo c'è un pacchetto da 120-130 miliardi per stimolare l'economia, ad esempio attraverso la ricapitalizzazione della Banca Europea per gli investimenti, attraverso i project bond. La Merkel invece non cede sulla stabilità e sul rigore, quindi sulla possibilità che Bruxelles intervenga sui bilanci dei paesi meno virtuosi. In tutto questo il nostro premier Mario Monti è partito per Bruxelles con l'appoggio delle Camere, con la riforma del lavoro approvata e dettando precise condizioni. Il Premier condiziona il sì italiano alla Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie, a passi in avanti concreti per far scendere la cosiddetta febbre degli spread. In questo modo Monti ha inviato un chiaro messaggio alla Merkel, che aveva dato per scontato l'appoggio italiano alla tassa sulle transazioni finanziarie. Ma sentiamo il Premier. Occorre che la politica economica, senza interferire con le tendenze di fondo e di lungo periodo dei mercati, sia però in grado di correggerne distorsioni che possono vanificare gli sforzi che sono importanti e che vanno sostenuti durevolmente per la disciplina di bilancio e per le riforme strutturali. Quindi è in questo contesto e non è un dialogo tra due pur importanti stati membri che il tema si colloca, quindi è una cosa che l'Italia non viene a chiedere ma viene a offrire come contributo per una maturazione più soddisfacente per tutti. In pratica il Fondo Salva Stati dovrebbe poter intervenire sui mercati e comprare i titoli dei paesi più sotto pressione, i paesi che stanno attuando le riforme e che quindi possono essere considerati virtuosi. Dobbiamo dire a questo proposito che ai tassi attuali a Italia e Spagna costa più del doppio finanziare il proprio debito rispetto alla Germania. Sicuramente oggi si parlerà anche di unione bancaria e di come integrare l'unione economicamente e politicamente. Ed è tutto. Grazie a Valeria De Rosa. Intanto vi do anche quello che è l'umore sui mercati, perché anche questi, come sentivate, contano dopo la chiusura positiva ieri delle piazze europee, ieri sera anche di Wall Street. Questa mattina l'indice Nikkei a Tokyo ampiamente positivo, più 1,34%. La viabilità e poi l'altra sfida di oggi. Ci siamo, il momento della verità per l'Italia di Cesare Prandelli a Varsavia. La nazionale azzurra scenderà in campo questa sera contro la Germania nella seconda semifinale di Euro 2012. Chi vincerà affronterà la Spagna che ieri si è qualificata ai rigori dopo che col Portogallo anche i tempi supplementari sono finiti per 0-0. Che aria si respira? Cosa succede a Varsavia? Sicuramente un pezzo di storia, e allora proviamo ad andare a Varsavia. Che aria si respira? Lo chiediamo al nostro inviato Carlo Genta, buongiorno. E ci siete riusciti, buongiorno Anna, siete a Varsavia con me. L'aria che tira è bella, c'è un bel sole, Varsavia si sta svegliando e aspetta la partita di questa sera. Per chi tifano? Insomma, per chi tifano, Carlo? Ma questo non ho ancora avuto modo di capirlo. Quello che ti posso dire è che in giro ho visto parecchi tedeschi ma nessun italiano. Sarà l'effetto Merkel. Era tardi, oggi vedremo. Daremo un'occhiata alla città, vedremo. Senti, anche... ti leggo il rompipallone di Gene Gnocchi, visto che l'hai detto tu. Oggi a Varsavia a sostenere gli azzurri ci saranno 20.000 tifosi, solo 3.000 per il ministro Fornero. Speriamo che qualcuno di questi tu lo incroci. Sì, speriamo di incrociarlo, speriamo di incrociarne qualcuno, però insomma non abbiamo ancora avuto modo in realtà di valutare la situazione del tifo, lo faremo oggi. C'è grande attesa, questo sì, perché insomma anche ieri sera erano ogni luogo aveva una televisione ed erano tutte piene di gente, insomma, anche per seguire la semifinale del Portogallo contro la Spagna, quindi c'è grande attesa. Mi sembra che la Polonia senta molto questo europeo da cui è uscita prestissimo. E che adesso... però tutto sommato ha organizzato bene, questo... Sì, no, mi sembra tutto perfettamente organizzato, perfettamente funzionante. Ci sono tracce di europei ovunque, che siano maxi schermi, che siano insegne, che siano giganteschi palloni. Ad esempio c'è un gigantesco pallone dell'europeo che apre le porte del centro di Varsavia, quindi insomma sono... C'è aria di europeo. C'è aria di europeo, Anna, c'è aria di europeo. C'è aria di europeo anche a Radio 24, Carlo, ce lo racconterai questa sera. Questa sera, tutto il giorno, perché abbiamo in programma un sacco di speciali proprio per avvicinarci a questa partita. Il prossimo alle 8:45 con Alessandro Milan ci avvicineremo a questa partita che insomma è quella della verità. L'Italia ha recuperato tutti i giocatori, ma su questo non c'erano dubbi, perché partite come queste, in partite come queste i dolorini non li senti neanche, se c'è qualcosa da rischiare lo rischi, De Rossi compreso. Ha recuperato tutti, anche la Germania, c'era dubbio Schweinsteiger e invece ci sarà, dunque ranghi completi. Prandelli ha un, si dice abbia un unico dubbio, che è quello relativo a, alla tenuta di Cassano, e vedremo, che vedremo se lo scioglierà. Vedremo, ti aspettiamo anche con Alessandro Milan, un pezzo per volta in questa giornata con i nostri ascoltatori. Grazie, grazie Carlo Genta, davvero partita della storia questa sera, la pensa così anche Cesare Prandelli. E allora con Prandelli chiudiamo, io nel frattempo vi saluto, buon giovedì da Anna Migliorati, a tra poco con GR24. Il trend sarebbe quello di cercare di vincere sempre, ma non è possibile. E noi comunque siamo consapevoli che sarà una partita completamente diversa da tutte le altre. La storia può insegnare tanto, ma poi è la realtà del momento. Affronteremo una grande squadra, abbiamo grande rispetto, ma abbiamo anche la nostra convinzione che possiamo fare una grande partita.